Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Amici di Ristoradio Convento, attenzione perché stiamo per entrare in un mondo fatato, in quel mondo in cui ci porteranno queste 5 ragazze che abbiamo qui in questo momento. E come sempre dico, una gioia in questo momento avere 5 ragazze tutte insieme, nessuna è interessata a te, però insomma è comunque bello, è un'esperienza bellissima. Soprattutto una non è interessata a me, non tanto perché non sia bello, anzi sono bellissimo, ma perché si deve sposare e quindi ha già trovato chi dividerà con lei il resto della sua vita, si spera. Giusto, puoi anche parlare, ti hanno dato il dono della parola, sì, benissimo. Quindi sei una di noi, non sei venuta da un altro pianeta, anche se così vestita potresti esserlo. Allora vai, come ti chiami? Microfono, così ti sentiamo? Lisa, che non ha Instagram, ve lo dico, è tipo nata nel 1920, è rimasta ancora a quell'epoca, e ancora deve capire che hanno inventato la ruota e i telefoni cellulari. Allora, Lisa, da dove vieni? Vicenza, benissimo. E purtroppo mi sono già mangiato la sorpresa. Sei qui per festeggiare cosa, però? Dillo tu. Mi sposo martedì. Martedì? Quindi tipo dopodomani? Dopodomani? Oh, finalmente dovete sapere che siete, noi ospitiamo tanti celibati e nubilati, finalmente siete tra le prime che mantengono la vecchia moda, diciamo così, di fare la festa a pochissime ore dal matrimonio, perché ora si sta portando molto indietro il momento della festa, invece era nata storicamente fatta veramente poche ore prima per vivere veramente ancora il brivido quasi, no? della cerimonia. Martedì dove vi sposerete? Con chi ti sposerai soprattutto? Sposerò a Garda con Fabio. Con Fabio? Ok, ma lui è di lì o? Garda, sì. Ah, ok, lui è di lì, quindi vivi lì adesso? Sì, sì. Vivi lì, perfetto. E beh, non ti è andata malissimo, visto che Garda è molto diversa da Vicenza, è bella anche lei, però insomma Garda direi che ha molte cose in più da un punto di vista paesaggistico, insomma, come zona rispetto a Vicenza. E come vi siete conosciuti? Raccontaci un po'. In un corso per baristi in una discoteca. Ma va, e quindi fai anche la barista o sei andata al corso per conoscere lui e poi sei andata via? No, faccio ancora la barista. Ah, perfetto, quindi hai finito il corso, non è che dopo averlo conosciuto hai mollato, hai detto, io ero venuta per cuccare, ho cuccato, adesso farei cocktail, non me ne frega niente. Invece, fregata. Sei andata avanti. E cosa, fate questo anche nella vita o? Sì. Tutte e due? Tutte e due. Nello stesso bar, no? No, diverso. Nello stesso bar diverso, ma avete intenzione di aprire un qualcosa di vostro o? Pian piano, l'idea. L'idea è quella, ok. E non sei solo, ovviamente, ti accompagnano le tue, non so se amiche, se testimoni, non credo colleghe a questo punto, perché magari. Tutte e tre? Cinque bariste. Amiche, testimoni e colleghe. Madonna, cinque bariste abbiamo, fantastico. Insomma, la collega è una. Ah, ok, infatti, volevo capire un attimo, vai, presentiamo anche loro allora. Io sono Denise, sono la testimone della sposa. Oh, bello, bello. Vengo dal Trentino, però adesso vivo a Bardolino, vicino a Garda. Cioè, quindi tutte e due trapiantate? Sì. Esatto. Esatto. Bene, diciamo che dal freddo ha scelto una temperatura un po' più mite. Esatto. Anche se il caldo non lo sopporto. No, ok. Infatti non vedo l'ora che arrivi. Bene, bene. Poi abbiamo? Beh, c'è anche quello se volete, quindi puoi avvicinarti lì. Sì, funziona. Sono Martina, sono la collega della sposa. E niente, io sono originaria di Brescia, però vivo a Cuquino. Ah, beh, mi fai un mojito, per favore. No, visto che è la collega, insomma, ne approfittavo subito, benissimo. Poi abbiamo lei. Io sono la Maria, sono un'amica della sport. Okay. Secondo me è dal Trentino. Ah no, Val Gardena, è da lei, perché si chiama Gunther Strasser lì su. Gunther Letter, esatto. E che in tedesco vuol dire? Tradotto vuol dire sotto l'Alleche, che è un fiume in Austria. Ah, pensa un po'. Sono i Oberlechner e Sì, esatto, esatto. No, chiedevo appunto perché tanti nomi in tedesco hanno una traduzione italiana che se la traduci letteralmente ti vergogni quasi di avere quel cognome lì. E invece no, così è, nel tuo caso invece è bello. Sì, però nel senso sono tipo Schwarzmüller, tanti che adesso non mi ricordo gli esempi, ma ce n'erano alcuni che tradotti letteralmente facevano parecchio ridere. E chiudiamo con Valeria, amica della sposa, da Bardolino, vivo a Bardolino. No, esatto, vedi, l'unica che porta in alto l'onore di Bardolino, esatto, autoctona. Quindi vi dicevi conosciuti a un corso per barman, ma poi avete iniziato subito la relazione o è passato quel frangente di X anni per cui poi la vita vi ha uniti? No, assolutamente, praticamente da Ah, da subito. Però beh, sarà stata un po' a distanza, immagino all'inizio. Io sì, all'inizio sì, poi abbiamo già iniziato a convivere e a dicembre sono già 6 anni che siamo insieme. No, bello, bello, benissimo. E come, cioè, nel senso, ti ha fatto ubriacare per chiederti di sposarti o eri sobria? No, ero sobria, stavo davvero. Perfetto. Ci credo anch'io. Sì? Incredibile, come, e come ha fatto? A chi, cioè, mentre shakerava ti ha detto, sai, cioè, no, sembra molto pubblicità del Campari, no? È stato stranamente, nel senso, è stato romantico, carino, sì? Nel verde, proprio quando non me l'aspettavo. Ah sì, hai visto? Perfetto, fantastico. E anche un'ultima cosa che voglio sapere, come mai questo abito, adesso non so se è elfico, fata, non so cosa rappresenta. Sì, no, forse esatto, è la testimone che deve giustificare. Perché è un amante di quel mondo lì un po' fatato. Sì, fatato, tipo? Ma fantasy, no? Ah, sei tra le nuvole. E quindi ti hanno un po' ricordato questo tuo modo di essere. Va bene, vuoi dire qualcosa, vuoi mandare un messaggio a qualcuno? Salutare lo squadro. Beh, più che altro grazie per l'addio. Oddio, annubilato, sempre, no, sempre grazie per l'addio che domani non vi vedete più e vi odierete a vita. Scusa se sono stato didascalico, ma che non vorrei che si capisse che domani non si vedono più. Grazie per la festa, l'addio, ragazzi, a domani odiamoci e dobbiamo essere strane per sempre? No. E in caso, se per caso sarà ancora sobrio, questo l'addio anche lui. Anche in contemporanea. Ciao a Fabio. Bene, bene, quindi in contemporanea anche dal suo punto di vista. L'addio al celibato. Bene, bene, dai ragazzi, allora vi lasciamo ancora qualche minuto per ballare e godervi la discoteca, anche perché già l'addio al nubilato di domenica è già di per sé una scelta controcorrente. Ah, però è vero, lei domani non lavora, avendo il lunedì libero, come tutti quelli che hanno un'attività in proprio ci rispettino, quindi avete fatto bene. E in bocca al lupo e tanti auguri alla nostra Lisa per un prospero futuro fatto di mojiti e tanti spritz. Qual è il tuo cavallo di battaglia, quello che ti viene meglio? Uno, cioè, non è una cosa che fai bene, tipo un cuoco ha il suo piatto principale. Il problema è quello, cioè io sarei cuoca. Ma tu saresti cuoca? Quello è il problema. Devi un attimino scegliere cosa fare nella vita, cioè. Ma finché vedi entrambe le cose, sì, capisci come lavorare, è molto meglio. Sì, dici? Beh, allora dai, qual è il piatto che ti viene meglio e il drink che ti viene meglio a questo punto? Beh, amo lavorare sul pesce e drink. Anche qui, non per essere didascalico, non fisicamente che lei si mette sopra i pesci a fare i cocktail e a cucinare. Nel senso, sul pesce mi immagino farà cucinare pesce. Drink, rimango generica e dico miscelati a priori. Miscelati a priori, bello, non ho capito niente, ma mi fido della tua. Esatto, mi fido della tua competenza e della tua professionalità. Grazie mille ragazze, in bocca al lupo e buon matrimonio alla nostra Lisa e grazie alle nostre ormai amiche, alle sue amiche per avercela portata qui questa sera. Grazie ancora, a presto, ciao! Viva la sposa! Avevo paura a finisse in un altro modo, meno male che ha detto sposa, ciao! State ascoltando Ristoradio Convento.